almeno dei motivi nel condizionamento che la televisione come strumento di riproduzione di immagini ha esercitato negli utenti che acquistavano quelle opere. Vediamo di capire cosa succedeva. Qualcuno di voi ricorderà che prima dell'avvento della televisione a colori, in Italia ci fu un gran dibattere sul sistema da adottare, PAL o SECAM, ricordate? Anche senza entrare nel merito dei due sistemi, non è difficile capire che i due sistemi non si equivalevano, anche per questioni riguardanti la qualità del colore. Non voglio dire un sistema inferiore all'altro, voglio dire uno diverso dall'altro. Ora, avendo scelto uno dei due sistemi, è capitato che tutti ci siamo abituati a un tipo di colorazione ed è verso quel tipo di colorazione che tutto ciò che passa attraverso la telecamera viene trasformato. Per dire, sul teleschermo la pelle del nostro viso appare di un bel incarnato, come dicono i pittori, un po' uguale per tutti. I colori dei fiori, anche quando non lo sono, appaiono sempre meravigliosi. Perché? Perché i colori che si mischiano fra loro sono sempre gli stessi e mantengono sempre gli stessi rapporti, come se a usarli fosse un bravo pittore, il quale, quando è bravo, si sa che è capace di dipingere una scarpa vecchia e farcela apparire bellissima. Allora, per tornare alle aste televisive, cosa succede a un brutto quadro che venga ripreso da una buona telecamera e ricevuto da un buon televisore? Succede che i suoi brutti colori vengono trasformati dal sistema di colori della televisione in bei colori. E così la gente un po' intronata, che non capisce queste cose, che non si rende conto di quanto tutto venga trasformato dalla televisione, compra quadri per televisione e non si accorge d'aver comprato immondezza. Ora, cosa succede a queste persone? Ma attenzione, non perché si tratti di intronati. Succede che, anche quando il quadro arriva a casa e possono vederlo da vicino, non vedono i brutti colori di quel quadro, ma ancora i bei colori della televisione. Anzi, questa volta proprio perché si tratta di persone intronate, siccome hanno sentito dire che l'originale è sempre più bello, dicono che è persino migliore di come l'avevano visto in televisione. Insomma, amici miei, anche oggi è andata. Il tempo, come si dice in queste circostanze, è volato via. Non sembra vero di come corre in fretta quando si trattano argomenti così interessanti, o no? Miei attenti radioutenti, buongiorno. È Tonino Casula che vi parla con l'intento di intrattenervi, anzi di trattenervi, amabilmente si capisce, molto amabilmente, su problemi di varia natura e spessore culturale. Da dietro il vetro dell'acquario, Mauro Schirru, che è lo stratega di questa trasmissione, mi osserva con sguardo preoccupato. Ha paura che anche oggi la tirerò per le lunghe, con le chiacchiere. Per non restare travolto dal sonno, prima di entrare in trasmissione si è riempito di caffè. Un celebre pittore dell'Ottocento, di cui come al solito non so riferirvi il nome perché la mia memoria è un vero colabrodo, diceva che gli artisti farebbero bene a tagliarsi la lingua. A me sembra eccessivo. A me se mi impediscono di parlare sono fritto. Oggi però, forse, farei bene a tagliarmela davvero, perché avrei intenzione di affrontare un argomento che in noi sardi suscita sempre un po' d'ansia. Un argomento che, se non lo tratti alla maniera dei brontosardi, rischi di farti molti nemici, di passare per un traditore della patria. I brontosardi sono un po' permalosi e facili all'offesa. Se qualcuno si permette di dir male della nostra patria, intendendo per patria la Sardegna, si capisce. Intendiamoci, non è che io mi proponga di dir male della Sardegna. Anch'io devo essere un po' brontosardo, innamorato della mia terra. E infatti, a differenza di molti artisti che non hanno saputo resistere, io non me ne sono ancora andato e credo che non lo farò mai, anche se resistere non è facile. No, è che da noi vanno molto certi argomenti che, secondo me, non sempre sono motivati, non sempre mi sembrano ragionevoli. A volte mi sembra addirittura che certe cose si pensino con i piedi invece che con la testa. A volte mi sembrano persino ridicole queste cose, anche se mi rendo ben conto dell'importanza che hanno per chi le pensa. Comunque, miei attenti radioutenti, non ho nessuna intenzione di tagliarmi la lingua. E allora state a sentire. Qualche tempo fa, a Nuoro, c'è stato un dibattito di chiusura di una mostra regionale, una mostra di pittura e scultura intitolata 25 anni di ricerca in Sardegna. Come capita sempre, ormai, nei dibattiti sull'arte, di arte si è parlato ben poco, mentre si è parlato d'altro. In particolare, tanto per non cambiare, si è parlato molto dei culti indigeni sulla specialità, la specialità di noi sardi, si capisce. Io sono molto consapevole che nascere in Sardegna deve essere un evento straordinario e in qualche modo preoccupante. Ma anche nascere a Bagni di Luca non deve essere uno scherzo, e anche nascere ad Agordo deve essere straordinario e preoccupante. Ecco, chissà se a Bagni di Luca e ad Agordo si sentono speciali per questo. Certo è che in noi brontosardi, solo l'idea di non esserlo in tutto, proprio in tutto, crea inquietudine e dolore. Ci sentiamo strappare il cuore all'idea di non essere speciali, ci sentiamo smarriti come bambini in un bosco buio e pieno di lupi. Insomma, se qualcuno si permette di dubitare del fatto che noi siamo diversi, speciali appunto, ci sentiamo travolgere dalle incertezze e dalla tristezza. Questa cosa mi ricorda i russi, sul conto dei quali, in periodo di guerra molto più fredda, se ne dicevano di ben pesanti, che non conoscevano il cucchiaio, per esempio, e che staccavano i rubinetti delle fontanelle pubbliche, appena entrati a Berlino, con l'intento di rimurarsele a casa, convinti di portarsi dentro allo zaino una macchinetta capace di fabbricare l'acqua corrente. Ebbene, per difendersi da queste accuse di inciviltà, furono costretti a far circolare la voce secondo cui la radio non l'aveva inventata Marconi, ma un certo Popov, scienziato in carne piena, indigeno di Russia. Questa cosa mi ricorda i russi per gli stessi sforzi disperati che molti artisti brontosardi fanno nel cercare di dimostrare al mondo quanto noi sardi siamo speciali, non solo quando arrostiamo porchetti, ma anche quando facciamo quadri. Lo dico francamente, a me questa cosa sembra un po' ridicola, e di questa cosa vorrei parlarvi oggi, nella speranza di non offendere nessuno. Anzi no, nella speranza che qualcuno invece se la prenda. Senza cambio sessinoso, effettinoso s'appagai. Senza cambio sessinoso, e no su fetta e sbagliai. finza saccandosi ingiustizia, ad appodi continuai, e non ci adesci in un altro modo, che crescivo lottai, e crescivo lottai, e lottai mo imparai, a non poi brupeis in fallo, e non bruso sbagliai. Ono vivi signoranza, che pensa sois in da papà, e poi raccontai ai satrosu, su che in sapide os imparau. Ci pianta canos rendischi, ben duotia sanna predicai. Ci pianta canos revi, manca voci a furai. E canos revi di arregallo, ubisci vova fai. Ma vova fa ogni appi, imparai si appiscai. Spero che nessuno di voi, miei attenti radioutenti, se la sia presa per quella punta di ironia e di malignità che ho messo nel proporvi l'argomento di oggi, la specialità dei brontosardi. Chi vi parla è sempre Tonino Casula, con l'intento di intrattenervi, anzi di trattenervi, su problemi di varia natura e spessore culturale, amabilmente si capisce, molto amabilmente. Non vorrei mancare di darvi un'informazione fondamentale. Il brano che sentite nel sottofondo è un brano cantato da Franco Madau, viene da un LP che ancora non è in circolazione, quindi di questo brano non conosciamo il titolo. Il titolo dell'LP invece sarebbe Amava. Allora riprendiamo il nostro discorso. L'avrete capito. Io non sono di quelli che se ne vanno in giro a cercare radici e certificati di identità, e perciò forse non sono la persona più adatta per capire il bisogno di sentirsi speciali. Anzi, a dire la verità, mi sembra che se scoprissimo di assomigliare al resto della specie, almeno per quanto riguarda certe attività e certi comportamenti, forse non ci sarebbe niente di male, anche perché qualche volta l'altra parte della specie potrebbe rivelarsi capace persino di insegnarci qualcosa. Spero con questo di non offendere nessuno, per carità, non arriverei mai a dire che gli altri possono persino essere migliori di noi. E sia chiaro che le attività e i comportamenti di cui parlo si riferiscono alle attività e ai comportamenti di noi artisti. Per il resto, soprattutto per quanto riguarda le autonomie, si sa che siamo speciali davvero. C'è persino scritto nello statuto.